Proprio grazie al silenzio possiamo riconoscere la forza di questi pensieri. Proprio grazie al silenzio il rumore, il fastidio. L'inutilità di questi pensieri, di queste storie che continuano a proporsi, senza condannare, senza giudicare. È una funzione della mente produrre storie, produrre ipotesi, possibilità, immaginare cose che non vanno, problemi. Con grande affetto, con grande compassione, non pietismo, ma un affetto che nasce dalla visione della sofferenza e della sua inutilità. Senza bisogno di capire, senza bisogno di aggiustare, solo percepire questa fatica profonda e inutile. Con grande affetto, anche perché è una fatica condivisa. È una trasmissione. Che si manifesta in questo corpo-mente. La trasmissione di una paura antica, collettiva, condivisa. Una trasmissione senza colpevoli, senza vittime. Dall'illusione della separazione nasce la paura, la preoccupazione. Con grande affetto, con grande dolcezza, questa trasmissione si manifesta in noi e in noi può essere riconosciuta con affetto, con grande dolcezza, sentita. Abbracciate, senza bisogno di fare, senza bisogno di aggiustare, il semplice riconoscimento del corpo teso, del riflesso della preoccupazione, del giudizio, dello sforzo nel corpo. In questa piccola tensione che l'inspirazione abita, rivela questa fatica, questa paura che si accumula nelle spalle, che rallenta, soffoca il respiro, con grande affetto, senza bisogno di capire, senza bisogno di un metodo, senza bisogno di afferrare. È un ricordare che non ha bisogno di noi. È un ritorno al cuore, ricordare. Non c'è bisogno di una teoria. La fatica, il timore è dentro le spalle, nei tendini, nelle ossa, nelle articolazioni. Con grande affetto, con pazienza, proprio come ci invita Thay, come una mamma affettuosa che finalmente riconosce la richiesta di aiuto, la richiesta di attenzione della sua bambina, del suo bambino. Si avvicina a lei, a lui, e lo porta a sé, lo avvicina al suo corpo, lo abbraccia, e l'energia della mamma, ci dice Thay, a poco penetra nel corpo teso, contratto, dolorante del bambino. Non è un fare, ma è un affetto. Non è un metodo. È un voler bene naturale che nasce dal sentire la contrazione, il dolore. Non è un aggiustare. È una dolcezza che respira. Un contatto che guarisce senza bisogno di capire, senza bisogno di un metodo, senza bisogno di un piano. Senza bisogno di essere buoni. Senza bisogno di essere capaci. È l'affetto che nasce. Dal sentire. È un ricordare, è un ritorno al cuore e al suo spazio, alla spaziosità. La libertà. ricordare la libertà, non ricordare che non ci sono solamente le preoccupazioni, il continuo sforzo dell'aggiustare la vita, dell'aggiustare se stessi, dell'aggiustare gli altri. Proprio quando questo sforzo è riconosciuto nelle ossa, nelle articolazioni, nella struttura del corpo, con il sentire accade l'affetto. Con la pazienza accade il coraggio, il coraggio che respira, il coraggio che riposa, è un riposo così vasto, così dolce e paziente, da non temere nulla, neppure questa resistenza, questa irrequietezza. Anche questa piccola sensazione, questo piccolo disagio, finalmente accolto, respirato, non da noi, non è l'ennesimo compito, non è l'ennesimo sforzo. È l'affetto che nasce dal sentire. Il corpo teso, contratto, il corpo dove è scritta la paura, dei nostri genitori, di nostro padre, di nostra madre, il corpo dove è scritta la preoccupazione, l'ansia, di generazioni e generazioni di antenati. Quando questa torsione, questa tensione, questa contrazione nelle spalle, nel viso, nelle mani, persino nella lingua, persino nel cranio, all'interno del cranio, nelle lombari, nelle mani, nelle dita. Nello stesso istante in cui questa resistenza, questa contrazione, questo dolore è riconosciuto, sentito, senza bisogno di noi, senza bisogno di un fare, di un aggiustare, di un metodo, senza bisogno di meditare, senza bisogno di un risultato, senza bisogno di essere buoni, bravi, di riuscire o di fallire, senza bisogno di una storia, quando c'è solo il nudo sentire di questa contrazione, di questa storia scritta nel corpo, questo dolore che è la storia di questo corpo. La storia di generazioni. Allora, nasce un affetto nasce una pazienza gentile dolcezza che respira, senza bisogno di noi, senza bisogno di un piano o di mettersi in tasca qualcosa, come un regalo, il regalo che può fare una mamma, un regalo completamente gratuito, pazienza, coraggio, affetto che respira, che non vuole nulla, che non pretende, che non impone. Corpo aperto, il corpo chiuso, che riposano insieme. Senza bisogno di essere capaci, senza bisogno di essere bravi o non bravi. Solo la storia scritta nel corpo, finalmente sentita, finalmente respirata. Sentire è già amare, non ha bisogno di altro, non ha bisogno di aggiungere, non ha bisogno del meglio, non ha bisogno di risolvere. Sentire non è un fare, sentire è un permettere. sentire è già amare. Perché quando la fatica dell'aggiustare, la fatica della preoccupazione, della continua tensione, del continuo cercare una soluzione alla vita, quando questa tensione, questo sforzo è riconosciuto, senza bisogno di noi nasce un affetto che respira. Non un metodo, non una meditazione, non un'idea, un trucco. Ma quando il dolore è riconosciuto nelle articolazioni, nel viso, nelle mani, nel dorso, nel bacino. Ciò che nasce è un'intimità, è un affetto che respira. Un voler bene. Senza condizioni, senza pretese, senza obiettivi. Una dolcezza che inspira senza bisogno di noi, senza bisogno di una tecnica. Senza bisogno di risolvere, come un regalo, come un dono. Il respiro sa come prendersi cura. L'inspirazione, per sua natura, percorre, riconosce. Esita, si spegne proprio qui, nel cuore di questa piccola tensione, nel cuore di questa storia scritta nel corpo. E qui l'espirazione si prende cura, porta libertà, restituisce una goccia dell'agio naturale. Una goccia di questo permettere, di questa libertà. Questo ritorno al cuore, questo ricordare. Niente di speciale, niente che ci sia bisogno di afferrare. Quando cerchiamo di afferrare la vita, così semplice, quando vogliamo di più, di meglio, quando vogliamo un metodo, una tecnica. Quando vogliamo metterci in tasca questa libertà che per un istante è ricordata, che per la durata di una inspirazione, si ricorda di se stessa. Allora ritorna la tensione, la libertà è persa e questa piccola tensione ha un grande dono, quello di riaccompagnarmi a casa. E ancora una volta, il permettere, il riposo che non detta condizioni, che abbraccia tutto, che tutto permette, anche questa sensazione, questo luogo che non può ancora riposare, che non può ancora schiudersi, che non può ancora respirare. Il riposo è così vasto, così ampio e paziente. Da permettere anche questa piccola resistenza, questa piccola chiusura, questa piccola ferita che il respiro riconosce con l'inspirazione. Che il respiro allevia con l'espirazione, senza bisogno di noi, senza bisogno del nostro afferrare. Quando nasce l'afferrare, nasce la tensione nel corpo e la tensione ci riaccompagna nella libertà. Non è un nemico, ma un aiuto, un invito a tornare. Nell'unico luogo dove abita la libertà, la vita, l'affetto. Dolcezza che inspira senza bisogno di noi. Dolcezza che espira restando in questo ascolto affettuoso, questa presenza gustiamoci un lentissimo dolce schiudersi del corpo, questa ricchezza così, così semplice finalmente ce la gustiamo. Forse gli occhi all'inizio sono ancora chiusi proprio per abitare il corpo con più profondità, senza fretta, senza bisogno della paura. C'è un gustare, non abbiamo bisogno di un dopo. Ci ritroveremo fra poco sdraiati, sulla terra, abbandonati, ma c'è solo questo, c'è solo questa ricchezza. Non lasciamocela portare via dall'idea di un momento migliore di questo.